La ilaha illallahu ma'budu bi kulli makan. Non c'è divinità tranne Allah, l'adorato in ogni luogo. La ilaha illallahu il madhkuru bi kulli lisan. Non c'è divinità tranne Allah, il menzionato da ogni lingua. La ilaha illallahu il ma'rufu bi kulli ihsan. Non c'è divinità tranne Allah, il conosciuto per ogni perfezione. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. Non c'è divinità tranne Allah, ogni giorno è in attività.